Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un affettuoso saluto a tutti voi da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua Antonio anche stasera con un ospite non virtuale stavolta, ma in carne e ossa. Esattamente. Allora a te la parola. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista, al nostro coordinatore. Come sempre. Qui questa sera abbiamo un ospite, diciamo, reale, proprio in carne ed ossa, che è anche un amico. È il noto poeta, emigrante e trevisano nel mondo, Giovanni Foltran. Buonasera Giovanni. Buonasera Giovanni. Buonasera e benvenuto dalla nostra trasmissione. Grazie per aver consentito ad averla. E anche per aver accettato il nostro invito. Il nostro invito, esattamente. Ecco. Piacere allora, mio. Ecco, prima di continuare, naturalmente, noi andiamo. Allora ascoltiamo una canzone che è l'inno dei trevisani nel mondo e da chi è cantata? Dal gruppo Terra del Pin di Palmasola, Santa Caterina do Sul, Brasile. Brasile, benissimo. Genitora di tutti gli italiani del mondo. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Giovanni, al quale chiediamo appunto di iniziare questa narrazione partendo proprio dai primi anni. Da quando è nato. Non dico da quando è nato, ma da quando è emigrato dalla nostra cittadina. È nato a Roncade, poi trasferito a Lancenigo con un'esperienza della guerra e del dopoguerra, che era quasi peggio della guerra, con quindi un problema di vita, di pensieri, di programmi, che non si sapeva dove andare, cosa fare. Di sopravvivenza. Giusto. E quindi a Lancenigo per quanti anni? Quindi? È soltanto grande lì, a Carità. Quindi qualcuno conosce Carità. Sì, ecco. E là io ho conosciuto questa esperienza e a un certo punto tutti andavano in Canada, in Australia, però bisognava avere una richiesta di lavoro e io non avevo nessuno. E l'altra cosa era andare nelle miniere del Belgio e la mamma diceva: ti ammazzo piuttosto. Morale della favola, a un certo punto, dopo la militare, ho preso, sono partito con una combinazione così un po' avventuriera. Sono partito, sono andato prima nella zona di Como, poi da Como mi sono trasferito in Francia, ho fatto l'esperienza di un lavoro diverso di quello che non avevo. Ma scusi, per esempio a Como che cosa ha fatto di bello? Manovale. Ah, ho capito. Invece in Francia? In Francia ho cominciato a imparare a lavorare un po' il muratore. Ecco, vorrei però fare un passo indietro. Mi pare che più di qualche poesia, diciamo, del periodo di Lancenigo, si parla di dottrina, del Giorgio Piovani e compagnia. Ecco, quali sono state le esperienze formative, diciamo? I tempi. I tempi, ecco. Perché più di una poesia. E quindi ritengo che sia stato proprio la motivazione, che sia stata profonda, cioè di un'impronta vera. Ma gli anni della dottrina dov'erano? A Lancenigo. Avevamo un grande sacerdote, si chiamava Don Fulmine, un nome che era tutto un programma. Tutto un programma proprio. Era entrare a far dottrina era una bastonata, se non lo sapevi era una bastonata, e quindi dovevi sapere sistemi, tutto a memoria. Sistemi educativi efficaci, diciamo così. allora c'erano quei sistemi lì. Ecco. Oggi se tocchi un ragazzo anche con un fiore... Allora poi io ho avuto anche ero delegato di Azione Cattolica della zona e portavo i ragazzi, siccome davanti alla chiesa non si poteva giocare, guai a voi, vi ammazzo tutti. Ma perché? Neanche sul sagrato non si poteva? Non si poteva neanche. Allora li portavo a San Sisto, che è lì fuori di fondo. Cos'è, una frazione? C'era la chiesetta, il suo bel campetto, il campo così buttato là. E lì si giocava con questo pallone che avevo io, eravamo lì con Don Luigi, il cappellano, che poi è arrivato dopo lui. E da allora io, senza sapere neanche perché, avevo preso gli indirizzi di tutti i ragazzi, 70-75 ragazzi che avevo là, che mi sono serviti poi nella vita, perché io quei ragazzi lì li ho fatti arrivare in Svizzera poi più tardi, e più tardi, dopo 50 anni che io ero via nel mondo, mi hanno regalato una targa d'argento per ricordare 2001, per ricordare 1950, Azione Cattolica. Cose emozionanti. Ecco, allora noi adesso diamo un assaggio delle opere di Giovanni, il quale chiaramente dall'immigrazione, io ritengo dopo lo sentiremo meglio, dall'immigrazione ha tratto questa vena poetica che era latente, ma l'ha tirata fuori proprio. Io volevo chiedere una cosa, signor Giovanni, lei è stato anche in Svizzera a lavorare? Sì, dopo dalla Francia sono tornato in Svizzera. Esatto, ma questo... Sono rientrato, diciamo, dalla Francia. Esatto, questo è oggetto, del prossimo... È stata un'avventura. Bene. Perché non si poteva, poi io ero in Francia, ero senza permesso, senza niente. A un certo punto è arrivata la polizia e dice: no, torna in Italia, poi ritorna col permesso, tutto ok. Tutto a posto. Va bene, allora adesso sentiamo un assaggio delle poesie di Giovanni con alcune poesie in lingua, diciamo, veneta e altre in lingua italiana. Spago forsin, non te si mai mancane a me vita, te go trova cusio su ruspighi paioni, te ga tira un caretin pien de monae, tenu insieme gambe de poastri. Cotigo taglia fete de puenta, te go visto i gar soppresse profumae, rosari de figadei picai sotto i travi davanti al fuoco o in cane va a seccar. Cotigo fatto stringhe pargae osse, tenu insieme copertoni de una bicicletta vecia, e un brutto giorno vaise de carton piene de strasse e de agreme amare. Te mega porta su il me bella quion, e come che piangeva il cuor quando che il vento chiamava spago e a mangiare a voda, e io ci guardava un sogno finio a metà. Par far papusse storte, maneghi de borse, sporte fate de scartosse, bambue piene de semue, cotia me mamma se ga spunciai dei, per spagnagliare un scheo, per insegnarmi a lavorare. Ecco. Allora, io dalla raccolta ogni mattina leggo rondini. Ero felice con voi, rondini, quando il vento disegnava parole immaginarie nel profondo sereno dei giorni che amavo. Anche voi siete partite per lontane terre, dove il sole è muto, dove il mare si perde in un sempre lontano orizzonte. Ho inseguito grandi, sognato illusioni che attraversano la vita come intrighi di radici, mentre il tempo scivolava con un forte batticuore incerto. In tante mattine serene, pieni di voli innamorati, siete tornate veloci a quel nido pieno d'amore. Mentre io coltivo ogni sera i miei pensieri di vagabondo, e in cuore sento che laggiù, no, non tornerò più. E la prossima si chiama Porte Verte, che come la precedente fa parte della raccolta Na Sesta dei Ricordi. Porte Verte. I me diceva, vien tosato, che se lavoro, un fiaduro, ma è porte se tutte verte. Un vaso stampa sua fronte, una calda, amara lagrima, a benedizione per un'altra vita. Ed è porte che ne ho verte tante. Go lavora, soffrio, amà, fatto un scheo, spettando l'ora di dare un vaso su un marmo e piangere una vecchia agrema de tanto coltivata in cuor. Non conosco più me strade, trovo gente che non me parla. Ma cosa faccio adesso qua? Non ho più casa né parenti, ma chi me verse una porta? Chi me dona un tocco de cuor? E con questa prima tranche andiamo ad esaurire appunto la prima sezione e partiamo con la seconda canzone. Allora, la seconda canzone è intitolata, hai il numerito lì? Sì, Ave Maria dell'Emigrante. Ave Maria dell'Emigrante. Di? Luciano Taglioli. Ecco. Ah sì, è vero che la canta Luciano Taglioli. Strada dietro me ho lasciato ormai, un campo, una casa ed il mio paese. Tanta gente passa e mi saluta mentre mi allontano e mi prende ancor per mano la malinconia. I bambini che giocano insieme, Ave Maria, Ave Maria, mille voci si innalzano in cielo. Piangerò i miei prati verdi, la chiesa, le strade e di alberi in fiore. Non so proprio come mai è finita così, e pensando al mio paese sentirò tanta nostalgia. Sento un'Ave Maria. Mm-hmm. Bella questa Ave Maria. Torniamo in studio e col nostro amico Giovanni Foltran. Allora, lei ci raccontava che è andato in Francia, poi in Svizzera? Sì, ho fatto, non avendo permesso di lavoro lì in Francia, sono sceso giù dalla Francia, ho fatto Neuchâtel, la Suffonte, tutti quei paesi, la città lì, lavorando un po', e poi sono arrivato in Ticino. In Ticino c'era lavoro, stavano bene. E quindi lì è rimasto, ho trovato poi la fortuna di essere anche a campione d'Italia, che è questa isola italiana dentro territorio svizzero. E quindi lì ho lavorato, ho imparato a fare anche il piastrellista. Addirittura. Mestiere da poveri diavoli. Mestiere, diciamo, di fatica. Alquanto faticoso. Fatica, diremmo. Perché allora si doveva fare tutto a mano. Tutto quanto a mano, sì. Però si ha ragione, si faceva, sì, avevamo un gruppo, ho trovato un gruppo di paesani, di accompagnamento. E allora ho pensato di fare questa sessione di Trivialità del Mondo, che era quegli anni lì stava crescendo. Ah, ecco, quindi è stata la prima sezione di Trivialità nel Mondo? Sì, in Svizzera eravamo la terza. La terza. Tra le prime comunque. Sì, le prime, brasiliane, sì. Esattamente. Sì, è stata una bella esperienza, perché nessuno pensava mai di trovare questa gente tra di noi. Che poi disponibile, diciamo, è stato a un certo punto... Avevo 190 soci. Alla miseria. Mamma mia. Però distribuiti dal Gotardo fino a Chiasso, tutte le valli, che lì ho dovuto erano sparsi, sì, diciamo, nel territorio. Per sì, però una volta l'associazionismo era molto più sentito di adesso. Sì, c'era. Sì. Era un momento di aggregazione. Tutti cercavamo di stare insieme. Anche perché c'era lo sradicamento. Una volta uno partiva e non sapeva se o quando tornava, diciamo. Sì, ecco. Sì. Quindi proprio gli emigranti con la valigia di cartone, tipici, insomma. Sì, sì, tipico. Ho avuto anch'io esperienze sia alla famiglia, ma cosa si prova in quei momenti? Veramente dei momenti di nostalgia tremenda, vero? È una cosa che dobbiamo provare. È difficile da capire. È difficile capire. Se non si è quello quello che è qui ormai non sa più niente e non può capire. Non solo la nostalgia, è il domani. L'incertezza del domani. Perché non hai niente, non sei nessuno. Sei, allora anche in Svizzera. Un senso c'era, di inutilità, diciamo. Ecco. C'era la Schwarzenberg, non volevano più. Stranieri. Xenofobo, la deriva xenofoba. Sì, sì, sì, era forte. Come eravate trattati come stranieri in questa nazione? Beh, i primi tempi eravamo schiavi. Addirittura. Ti dovevi lasciare il passaporto in polizia. Sì. E ti davano un foglio di carta che eri comportarsi sempre rigidamente bene alle 10-11 di sera, essere già tutti a casa. Dicono che la Svizzera è molto severa. Era adesso non è più. Era fascista. Io dicevo fascista perché era come i tedeschi. Certo. Sì, nel senso di rigido ordine, sì, legge sì. E ordine, insomma. Va bene. Era un momento duro anche per loro, dopo ho cominciato a mollare, ma però allora con questo ti chiamavano zingaro. C'era una necessità, sai, proprio di tenere zingari. L'ordine pubblico. Certi bar non potevi entrare. Esattamente. E quindi era un periodo abbastanza duro, diciamo. Allora, adesso diamo un'altra tranche di poesie, sempre tra dialetto e lingua. Italiano. Esattamente. La prima è sempre dalla una sesta dei ricordi. Strada mia, come vorria tornar su a Toggiara, strada tutta mia, e far corse col sercio sul trodo e tra i buse, a pie scalsi, e corar cusì parcorar, e sogare il pito, e baete de fragna. Cercar merli paesiese e a sera finir straco, giocando a momo e a scondicuco, e dopo andare a dormir su paioni pieni de sogni e tante strade. E quante strade ho fatto, ma nessun tocco de mondo vo amà come ti, strada mia. Te geri a me casa, su ti ho fatto i capitombo i pibei, vi suo a meglio parte de a vita mia. Bene, allora io leggerò Preghiera. Non c'è la raccolta, ma sarà sempre quella di prima. Ritengo quella di Narcesto dei Ricordi, se non ricordo male. Sì. Sì. tempo che ora mi fuggi. Io so quanto ti aspettai, tra brumane di giorni neri e sul deserto del mio cuore, mentre tante povere aurore passarono, dopo notturni silenzi vegliarono su pensieri caduti nel vuoto dell'animo stanco. Non fermare, oh mio Signore, il futuro di questo tempo, questi giorni pieni e sereni dei miei sogni ritrovati. E come riposa in cuore la fiducia di questa viva, umile preghiera. E basterà un'altra vita per dirti col cuore in mano: grazie, grazie Signore. Cosa vuoi sapere voi altri? Cosa vuoi sapere voi altri quel che è buon? Così te me dicevi, papà, quando te vedea mastegar col gusto che dà fame, quel tocco de pinza duro, brusto e a, fumentà, vardà par giorni e giorni e magnà un tocchetto al dì par gustarlo de pi. Cote schinsavi fra i dei sporchi fete de puenta calda, par magnarla sbocconae con un tocchetto de formaio, una feta de saeado scaldà sul fianco del larin. Cote tociavi l'amaro sugo dei magri scopetoni, dei tocchetti de renga e frisighe de ardo. Cote ciucciavi e rosegavi ossi e teste de cunicio, sate de gal, nervi duri de porcel. Adesso non cerchemo pi neanche e croste de puenta, noro vae sua sporca caliera, ma pronte sul piatto. E adesso andiamo alla terza canzone. Allora, America America, questa volta cantata da un gruppo folcloristico vicentino, La Sgrola. La Grola. La Grola. Yeah. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Giovanni e naturalmente prima di continuare con la sua dissertazione vorremmo ricordare una persona cara, una persona amica che è stata il primo sponsor di, nel, inteso nel senso come segnalazione. Noi naturalmente avevamo già in animo di invitarlo, che è Marcello Cocchetto. Lo salutiamo veramente calorosamente. Cordialmente. È stato il mio primo maestro di poesia, sì, che mi ha invitato a scrivere, ha presentato i primi libri. Benissimo, lo salutiamo con grande cordialità. Simpatia. E adesso noi andiamo a ricordare, diciamo, questa dalla Svizzera, l'invito a chi? Chi abbiamo invitato? Diciamo? Ho cominciato a invitare il teatro, le compagnie teatrali. Questo in quale periodo circa? Subito dopo, cercava di avere... Anni queste, 50? Cioè, 70. Si cercava di avere questo gruppo, questi cori che venivano su. Sì, ma mi scusi, allora, avete fondato questa... Lei ha fondato questa sezione, ecco. E poi... E chiamava tutti i gruppi. Cercato di portare su i gruppi nostri, la rinascita, i cori, i gruppi teatrali, eccetera. Ogni volta che c'era la festa della nazione, il 2 giugno, 25 aprile, i fanfare bersaglieri, le piave, la musica di Villorba, la cosa di bambe. Ogni festa un'occasione per stare una insieme, una rimpatriata tra perché allora arrivavano degli amici da qua, salutavano là, era una cosa molto molto sentita, molto sentita e apprezzata, sì. Trevisani nel mondo, e io vorrei così conoscere un pochino di cosa si tratta, che cosa questa associazione, cioè è in contatto con tutti i trevisani nelle varie... Tutto adesso è allargata, certamente noi eravamo in Svizzera, sì, però in Svizzera avevamo un comitato tra di noi che ci trovava, ci decideva delle cose, e poi c'era qui a Treviso c'era Don Canuto che quindi... Don Canuto, l'ho conosciuto perlomeno io. Sì. Che era parroco qui alla chiesa di Sant'Andrea. Don Canuto è stata una delle anime. È stato lui che ha cominciato questo discorso e avanti, adesso è organizzata attraverso l'Australia, il Canada. Ogni continente ha una propria sezione, esatto, che poi avrà a sua volta diverse sezioni. Certo, appunto. Poi ha cominciato a fare le sezioni di qui che tornavano dall'emigrazione. Quindi qui ogni paese, qui di Treviso, cioè ogni paese ha una sezione di Trevisani, ex Trevisani nel mondo, sempre Trevisani nel mondo, ma ex emigranti. È una bella cosa, perché quelli che erano via si ritrovano. Esatto. Ed è una volta ogni domenica è una festa. E il culmine della festa dei Trevisani nel mondo è naturalmente il mese di luglio, la Dunata Mondiale dei Trevisani nel mondo, che è sempre un evento straordinario. E come si svolge questo evento? C'è 1200-1300 persone, sì, che arrivano da tutta l'Italia, diciamo, ma specialmente dall'estero. Ogni anno c'è dei gruppi più o meno numerosi che vengono giù dal Canada, Australia, Canada, Brasile, Australia, Argentina, dappertutto. Pensa un po', arrivano anche e arriva il presidente della regione, in genere sindaci, della provincia, un sacco di ma è bello che i sindaci vengono alla festa e poi non si vedono più. cosa fate? Succede. Un giorno solo? Tre sì, giorni? Una giornata, una ripatriata. C'è il nostro Gentilini, che anche lui fa parte. È un'anima che saluta con una cordialità che fa bene a tutti noi. Ecco, se mi permettete, c'è anche che anticipa la rimpatriata, la conferenza, diciamo. Il giorno prima c'è la conferenza in genere ai Carraresi, da qualche parte. Sì, fanno conferenza delle varie sezioni, che c'è una tavola rotonda con tutte le... E lei è presidente di quante sezioni? No, io ho fondato quattro sezioni. Quattro sezioni. Allora, ho fondato quattro. Prima Ticino, Quella svizzera? Sì. Ecco, poi? Poi ho fondato Como. Ah? Poi ho fondato Roncade, che Roncade, io ho il quale adesso è il presidente onorario. Ho il segretario che ecco, io sono segretario, immeritatamente segretario, ma tralasciamo. Come sei modesto, Antonio. E poi? E poi ho conosciuto, quando sono stato in Brasile, no? Con i Fontana, un'altra storia. Dopo la vediamo? Dopo la vediamo. Sì. Una storia bellissima, non so cosa dire. E abbiamo questo problema, conosciuto a Bento Gonzalo durante la festa che ho portato il gruppo folcloristico Borgo Furo, ho conosciuto tutti i trevisani che c'erano lì a Bento. Perfetto, allora adesso noi andiamo ad ascoltare alcune altre poesie in modo da dare un altro assaggio di questa tutte poesie, avventura tra varie terre, e la prima è Tegavei Razon Pupa. Questo dovrebbe essere dal un Toco de Sol, se non ricordo male. Vuoi che la leggiamo in italiano o la leggo dalla, dopo? No, beh sì, lo possiamo anche, io lo leggo in dialetto, poi Jesi la legge in italiano. Bene, che così allora, facciamo un contrattare. Sì, così me la preparo. Te avevi ragione, papà. E il Signore non paga il sabo, te mi dicevi, papà. E come c'era vero. Go trova gente che mi insegnava a guadagnare schei senza far fatica, ma te ho visto straco, contento del poco. Migo fatto come ti e sempre mi son dito, te avevi ragione, papà. Go sentio parole de fuoco in un tempo nero. L'onestà non serve. Ma a tua voce sussurrava che l'onesto varda tutto il mondo dall'alto. E un dì pien de ciaro go imparà e visto che te avevi ragion, pupà. Speravo trovar fortuna tra i pieghe del tempo, ma me son incorto che avera fortuna se imparare a soffrir, donar un tocco de cuor. Tante volte a sera, guardando sora il comodin a tua foto serena, go pensà che te avevi ragion. Papà. Avevi ragione, papà. Il Signore non paga il sabato, così mi dicevi, papà. E come erano vere le tue parole. Lungo le strade ho trovato maestri che volevano insegnarmi a guadagnare tanti soldi, a vivere senza fatica, sudori ed affanni. Ma ho pensato alle tue stanche sere, quando eri sereno e contento del poco. Io ho seguito il tuo esempio e col tempo mi sono detto, avevi ragione, papà. In tante ore buie della vita ho sentito parole di fuoco, l'onestà non serve. Ma piano la tua voce sussurrava che da sempre l'onesto guarda sicuro il mondo dall'alto. E in un giorno pieno di chiaro, la realtà mi ha fatto capire che avevi ragione, papà. Un giorno speravo trovar fortuna tra le dure pieghe del tempo, ma tu mi dicevi che la fortuna vera è imparare a soffrire e ogni giorno donare a tutti un po' di cuore. Tante volte in serate stanche, guardando la tua foto serena, mi dico, avevi ragione, papà. Andiamo con la terza poesia che parla di emigranti. Ditemi, amici, chi più di noi ha visto l'ombra della morte nelle oscure gallerie di carbone? Chi ha sognato nuovi orizzonti chiari ad occhi aperti quando c'era il buio? Chi ha pianto per illusioni amare quando c'era un ostinato bisogno di vita? Chi ha goduto come più di noi le piccole gioie nei piccoli momenti? Chi ha sperato sempre nuovi giorni contro ogni crudele, dolente realtà? Chi ha dimenticato una vita di croci per ritrovare nuove, pesanti croci? Chi ha cantato con vivo entusiasmo inni di saluto per una vittoria? Chi ha avuto al mattino pensieri di sole per ritrovare a sera uno zaino di cenere? Chi ha pregato con fede luminosa quel Dio amato e a volte tanto lontano che ha accompagnato i nostri logori passi? E con questa emozione Andiamo alla quarta canzone. Che è ispirata alla nave Sirio, no? La nave Sirio, esattamente. Ed è cantata dalla Grola. Dalla Grola, ancora anche quella. Vabbè, noi l'ascoltiamo, è così. Poi Sirio partiva in America, era il suo col nostro caro Giovanni Foltran, il quale continuerà a parlarci un po' della sua storia, di quello che ha fatto nella vita. Appunto, allora le cose sono nate un po' alla bellissima esperienza dell'immigrazione, no? Conosciuto, ho detto, perché non i trevisani? Perché non faccio un incontro con i miei parenti? E infatti abbiamo fatto un incontro con tutti i miei parenti, io pensavo ai parenti, quelli veri, i primi parenti, e infatti abbiamo fatto una bella festa e ha rimandato l'anno dopo un altro colpo, un'altra rimpatriata, diciamo, un altro in gruppo, ecco. Sì. A quel punto lì, questo dove questa festa fatta a Roncade. Esatto. E sono arrivati dei Foltran che nessuno sapeva che c'erano, dalla Susegana, da parte di Mareno, di Conegliano. Dice, siamo anche noi, siamo trevisani, siamo foltrani. Vabbè, e abbiamo fatto, cominciato a radunare, io ho cominciato a indirizzi, e avanti con tutta questa storia. Il terzo anno eravamo già 250. Ma eravate parenti? No, quello bello, che tutta questa marea di gente, sono adesso 3.000 e rotte famiglie. Addirittura. Una cosa. Mamma mia. Sono tutti originari di Susegana e Conegliano. Proprio. Susegana e Conegliano. Di là. E di là. E allora io ho continuato a insistere su questo discorso di Foltran, perché se uno si chiama ha un motivo di essere. Esattamente. Che non sono da oltre l'oceano, sono qua. Erano tutti nostri. Allora è venuto fuori benissimo un altro angolo, che dicevo, guarda che io ho parenti in Francia, Io ho parenti in Brasile. E quindi si è moltiplicato, perché il passaparola ha fatto tutto. Ha fatto un discorso enorme. Straordinario. Io scrivo in Francia, scrivo in Brasile, in Brasile vado a trovare delle persone. Ma siete ancora in contatto? Sì, adesso io torno il 20 di maggio a raduno a San Paolo, torno a San Paolo. Il raduno mondiale. Del Brasile. Sì, esatto. E ora, primi anni abbiamo fatto solo un raduno unico, adesso facciamo due raduni, uno in Paraná e uno in San Paolo, nello stato. Due, un anno di là, perché era troppo. Perché è vasto il territorio e quindi vogliono fare, suddividere un po'. E anche lì fate un incontro di un giorno o di più? Di due giorni, giorno e mezzo, perché lì c'è il problema il giorno prima, l'incontro, la cena, perché arrivano da lontano, allora si fermano, si fa. E l'atmosfera che si vive in questi. È meravigliosa. È meravigliosa, non c'è parole per dire che poi oltretutto tutti questi 900 fortran del Brasile non si conoscevano, non sapevano di essere, che c'era una storia. E io ho girato, ho fatto il possibile di trovare questa realtà. Ho costruito un professore fortran, ho trovato a Venezia dei documenti storici. È venuto fuori che un Foltran nel 600 era capitano di nave sotto i veneziani. Incredibile. Gli hanno dato, siccome era un personaggio importante, gli hanno dato il titolo, gli hanno dato la bandiera. E io ho portato in Brasile, oltre che il calice per dire la messa, che è questo mio particolare fantastico, perché per esempio a Curitiba l'arcivescovo di Curitiba vuole venire a dire la messa per noi, perché dice che la famiglia Foltran è un'unica, è bellissimo. Curitiba è il Rio Grande do Sul, no, è il Paraná, scusa. E allora a quel punto lì questo qui, uno di questi Foltran del Brasile, mi dice: guarda che io ho una cugina in Francia, nel Savoia. E io scrivo a questa signora, a questa persona, e un certo giorno dopo stavamo preparando la festa, io dico: guarda che noi abbiamo la festa a Conegliano, stavamo preparando la festa e si presenta una vecchietta e questa qui dice: ah, io cerco Giovanni, sono io. Una sorpresa enorme per trovarti di questa Foltran dimenticata, che non sapeva neanche che poi io avevo saputo, la cosa l'avevo saputa dal Brasile, che questa qui era cugina, prima cugina di quello là, di Ronaldo. E questa qui si parla un po', a un certo punto queste emozioni che ti ripagano, questa enormità semplice, questa vecchia che dice: io sono felice, se su io respiro. Come parlano in portoghese? No, qui è in Savoia. Io parlo francese. Io sono felice, io respiro l'aria di mio padre. Eccolo qua. Questo è il sunto di tutto. Di un'emozione. E continuando a respirare l'aria, questa volta di mia madre, diciamo, nel senso dell'autore, andiamo ad altri assaggi di poesia. Quante volte, mamma? Quanto goma ha il tuo ben grando, e il tuo sorriso ciaro, e il bianco candido dei tuoi cavei a onde. Quante volte ho rivisto nei tuoi occhi sereni, agreme amare, per i miei dolori, per il mio disobbedir. Quante volte ho ascoltata a toccare a voce parole de ben che moriva nell'anima come preghiere de fede. Quante volte adesso sento a toman che no vedo tra i miei cavei bianchi e me sciopa in cuor de botto una voglia de pianto. E io continuo sulla tua scia, dalla raccolta si fa sera. Come sono belli, mamma. Come sono belli, mamma, questi fiori che ti porto nell'ultima stagione, mentre strappi di venti freddi passano veloci sopra la campagna e la brina disegna arabeschi sui rami e croci di pianto. Son piccoli boccioli di rose per il tuo marmo di ghiaccio. E tu, Fiori fatti di sole volevi per il mio davanzale di vita, ma nel girotondo degli anni ho camminato passi nervosi, mentre lunghe mani di gelo spoglieranno i primi petali. Ed è inverno ormai, e non ricordo più i colori dell'arcobaleno, ma davanti al tuo sorriso candido qualche lacrima ora è fatta di gioia. Dalla raccolta ogni mattina, perdonami. Perdonami, amata mia terra, per averti un giorno abbandonata. I poveri sogni, i vani desideri, i canti di fede ed amore, le mie braccia non ti servivano. E sono ancora lontano dai miei campi, ma non ti ho mai dimenticata, e con amore sempre più profondo ti sento vicina al mio animo. E sono felice quando da lontani sentieri giungo a te stanco e amaro, e la mia ferita d'amore per te d'incanto guarisce. Belle, belle, belle. E qui andiamo alla quinta canzone. Andiamo alla quinta canzone, che è cantata da Beniamino Gigli, e penso che tutti la conosceranno, Terra straniera. Per me Beniamino Gigli è un tenore che mi è sempre piaciuto e ancora oggi penso che sia uno di quelli che mi piace di più. Uno dei grandi. Bene, allora la parola a Giovanni per a Giovanni. L'ultima tranche di quella che è la nostra serata. Dalla Francia appunto sono riuscito a collegare tutto questo discorso di persone, di famiglie che erano partite prima, dopo l'altra guerra e dopo questa guerra qui, perché si erano chiamati a ondate nella zona di Tolosa, dove c'era tanta terra, e loro, i nostri contadini, li hanno chiamati a lavorare lì. E lì ho fatto arrivare, abbiamo fatto delle bellissime feste, ho fatto arrivare dal Brasile una famiglia, 10 persone, e da Treviso siamo partiti al raduno dei Foltran della Francia, a Tolosa, e da Tolosa siamo partiti assieme a Lourdes, a Madonna di Lourdes. E per la sera abbiamo fatto la processione, i Foltran, tutti questi Foltran emozionanti, perché non si pensava mai di poter trovare in questo luogo così caratteristico e santo. Ecco. È stata una meraviglia per me, per tutti quelli che erano. E quelli tornando in Brasile si sono messi ancora d'accordo che volevano tornare qui in Italia, vedere ancora di più l'Italia, del Roncade. Nel frattempo ho scoperto una terra a Corbanese di Tarso, una terra Foltran, catastale, proprio non era una novità, per me era una novità, per loro no. E infatti il municipio mi ha dato subito l'ok per fare sistemare il capitello, a sistemare la strada che era abbandonata, era la strada Foltran. E allora questi qui, ancora, poi questi Foltran ricchi del Brasile volevano comprare tutta la terra, tutta questa collina, però non la vendevano. E lì abbiamo fatto delle grandi belle feste quando venivano loro ogni anno qui a Corbanese, prima a Conegliano, che è stata una cosa meravigliosa, perché avevo come amico il sindaco Floriano Zambon, che mi diceva sempre: mi aspetti che io voglio fare una foto con voi, perché mandavo ho preso l'abitudine di mandare in aria un messaggio, un palloncino con un messaggio. E un anno il messaggio è attraversato l'Adriatico e è arrivato fino in Croazia. Ma pensa, che bello, è simbolica, una cosa sì, altro che... A quel punto le cose erano diventate veramente grandi, è stato bello, e io ho cominciato a prendere nota di tutte queste cose, ho scritto il libro, adesso è stato pubblicato. E dopo non dico di più, perché a un certo punto, avendo conosciuto i Foltran del San Paolo del Brasile, sono andato a finire in fondo del Brasile a Bento Gonçalves. Ho portato un gruppo folcloristico di Borgofuro, lì ho conosciuto questi tutti i trevisani, una veneti, marea di trevisani. E ho chiesto di poter fare un gruppo, e l'anno dopo, nel frattempo, il sindaco di Casillas mi ha chiesto di portare un gruppo. Io ho detto: guarda, abbiamo i bersaglieri. E allora loro non sapevano neanche chi sono, e abbiamo fondato, prima abbiamo fatto la festa della Casillas, la festa dell'uva, sì, che hanno un sacco di uva che mai nessuno sapeva cosa erano. E ho fondato la Trevisani nel mondo di Bento Gonçalves con la fanfara dei bersaglieri del Piave. Bene. Un successo clamoroso. Bello, bello. Tutto, nessuno, neanche i nostri fondatori qua, i nostri sezioni della zona, sapevano. L'abbiamo fatta noi a Roncade, esatto, nel 59, esatto, con la fanfara. Con la fanfara, e io sì. a Bento Gonçalves. Una cosa straordinaria. E quanta gente che ci voleva bene. Immagino. Allora noi naturalmente non abbiamo possibilità di approfondire oltre, eccetera, anche perché vogliamo dare un ultimo. Ma tu dovevi dire qualcosa, mi pare. Dovevamo dire che la prima canzone che abbiamo ascoltato è l'inno dei Trevisani nel mondo, era cantata dal gruppo Terra del Pin, proprio di Palmasola, con il quale è stato fatto il primo gemellaggio internazionale tra sezioni di Trevisani nel mondo. Bene, ecco, bene. Allora adesso andiamo all'ultima tranche di poesia. Con A me pupà. Te ricordi tu pupà, co te me contavi a fatica de a terra dura, i tuoi giorni de guerra, e quando te me insegnavi lavorando e tante robe de a vita. Te vedo col tabaro butà l'alpina andar su a vecchia bici. Te ricordo sempre pronto a impaiar careghe e portar caramè e toccare i nevodi. Dopo tanto lavoro te bastava poco, te bastava per essere un uomo contento, un gotto di grinton, rosegare un sigaro toscan e una partita a 3-7 a domenica dopo vespro. Temegavo sto ben, anche se non temega mai portare in brasso. E come te geri bon quando che te messigavi se te ciapo e te me assavi scampar. Per vita, per tutto il ben che te mega dato, te basta, pupà, ste poche parole di amor, sto grazie grando che vien dal profondo del cuor. Bella, molto bella. Bene, io invece leggo dalla raccolta Ode per i Foltran, la raccolta Luminoso, Ode per i Foltran del Brasile. Ode. Ode, esattamente. Ecco, certo. Un piccolo angolo d'Italia non bastava alla fame della mia gente operosa. Le terre del lontano Brasile volevano forti braccia, sature di già provato lavoro. E dopo disperate decisioni, amate e travagliate attese, attraversarono lunghi mari vivendo l'inferno delle navi. E vaste e ondulate pianure verdi di amaro caffè e dolce canna da zucchero videro girovagare migranti stanchi e trepidanti. E furono tempi di lacrime rubate agli schiavi africani. Lungo il calmo fiume Tietè, barconi carichi di povere cose andarono verso un desolante ignoto e dall'alto del fiorito Marumbì i sentieri di Sierra Graziosa hanno conosciuto il lento, tenace, continuo operare mentre la disperazione piena di patito e crudele rancore era destinata a vivere. Ora, sotto la verde araucaria, nell'abbraccio dei vasti tramonti, i vostri patimenti hanno riposo. Le coraggiose, tribolate fatiche hanno dato germogli di vita e luminosi, come l'infocata vasta aurora brasiliana, sono i giorni dei nuovi Foltran. Ecco, e con questo ricordo noi possiamo soltanto dare così gli ultimi saluti. Purtroppo non abbiamo il tempo di fare niente altro, qui ci sarebbero emozioni che si accavallano, ma noi possiamo soltanto salutare perché siamo proprio in chiusura. In chiusura. E allora che cosa ci rimane da fare? Intanto ringraziamo il nostro Giovanni Foltran e ringraziamo veramente di cuore. Esatto. Devo dire la verità, che leggendo le sue poesie mi sono emozionata. Oh, ecco, e questo è lo scopo, sì. L'emozione. Veramente, veramente emozionata. Giovanni, un saluto veloce. Saluto gli amici che ascoltano, ringrazio voi che mi avete chiamato a emozionarmi un po' di più, ecco. E vorrei raccontare delle storie più belle, più grandi, ma va bene così. Un'altra volta. Okay. Auguri. Allora, grazie. Segretario di Giovanni Foltran. Non ci rimane che dire grazie, grazie a voi tutti che ci avete ascoltato. Ecco, e alla prossima volta. Io, come sempre, vi saluto affettuosamente con il mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.